Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Alluce, illice, trillice, pondulo, emellino, minolo, sembrano i nomi degli elfi. In realtà voi che ascoltate Essere e Benessere sapete bene che sono i nomi delle dita dei piedi, che in questi giorni iniziano a fare capolino, a mettersi in bella vista. Con i primi caldi spuntano i piedi, belli o brutti, grassi o magri, curati, trascurati. Oggi sono loro i protagonisti della nostra puntata e per dare loro la giusta importanza vi invito a fotografarli. Abbiamo lanciato anche quest'idea su Facebook, alcuni di voi ci hanno mandato la foto dei loro piedi, potete farla anche voi. In linea con noi abbiamo la dottoressa Laura Bertelé, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, di cui abbiamo già parlato, Ascolta e guarisci il tuo corpo, edito da Mondadori. Dottoressa Bertelé, bentornata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottoressa, mi viene un po' da ridere perché potremmo intitolare questa puntata A piedi nudi in diretta per un check-up completo dei nostri piedi. Sì. Allora, direi, se lei è d'accordo, di iniziare dalla forma, o meglio dalla tipologia, per capire se rientriamo nel tipo greco, romano o egizio. Come facciamo? Allora, guardate le prime due dita del piede, è quello che ci dice il tipo di piede. Sì. Per cui se l'alluce è un po' più lungo e tutte le altre dita decrescono in ordine, sì, si chiama un piede egizio. Sì. Se invece il primo e il secondo dito sono pari, anche le altre dita sono come danno l'idea di un piede un po' quadrato, è il piede romano. Sì. E invece quello greco presenta il secondo dito più lungo dell'alluce, come se fosse una piccola piramide. Sì, una piccola piramide. Io chiedo ai nostri ascoltatori di prestare attenzione alla forma del loro piede perché ogni tipo di piede ha i suoi punti di forza e le sue debolezze. Allora, dottoressa Bertelé, iniziamo subito a dare delle indicazioni ai piedi che ci stanno ascoltando. Agli egizi facciamo sapere che? Allora, per gli egizi dovete fare attenzione, nel senso che dovete fare molta attenzione al tipo di scarpe che mettete, in quanto avete un alluce molto lungo. Sì. E se mettete delle scarpe a punta un po' stretta, l'alluce diventa immediatamente valgo molto facilmente. Quindi a fare molta attenzione a questo tipo di problema. Sì. Perché è un po' più predisposto degli altri all'alluce valgo, il piede egizio. Ai romani invece facciamo sapere? Ecco, che ci vogliono delle piante, delle scarpe a pianta larga, in modo che le dita si dispongano ben aperte, cosa che in realtà vale un po' per tutti i piedi, ma diciamo quello piede romano ha in genere si chiama la volta trasversa anteriore, che è quella più della parte avanti del piede, sì, che è un po' più larga, e quindi bisogna fare in modo che il piede sia un po' più disteso e sia più comodo. Mentre i greci, che sono quelli che hanno il secondo dito più lungo delle altre dita, quindi l'illice che supera l'alluce, per rifarci al nomi delle dita dei piedi, dobbiamo fare attenzione a che cosa, dottoressa Bertelé? Un po' appunto che le scarpe non siano strette in punta, cioè non nel senso solamente, come dicevamo, per il piede egizio a punta, ma anche che siano ben lunghe, che non siano mai un po' più corte del numero, in quanto il piede può flettersi, quello che si chiama, e ci torneremo su, angriff, che vuol dire piede ad artiglio. Certo, perché la calzatura costringe il secondo dito, se è più lungo, a rimanere a schiacciarsi. Esatto. 800 24 00 24, se volete raccontarmi come stanno i vostri piedi, se avete delle indicazioni sulla loro forma, osservatele, mandateci la foto, l'avete già fatto. 800 24 00 24, 349 238 6666. Spesso i nostri piedi non ci piacciono, dobbiamo riprendere a trattarli con attenzione, a trattarli come tutte le altre parti del corpo. Pensate alle cure che dedichiamo alle mani e pensate alle cure che dedichiamo invece ai nostri piedi. Se si sentono trascurati, dottoressa Bertelé, soffrono, perché i piedi hanno un cuore e sono molto sensibili. Esatto, ecco, una cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che i piedi sono le nostre radici e quindi devono essere comodi, ben aperti, in modo che scarichiamo le nostre tensioni verso il basso. I piedi sono da una parte la possibilità per scaricare il peso di tutto il corpo, ma anche le tensioni emozionali verso il pavimento, verso la terra. Dall'altra prendere anche energia dalla terra, dalla sabbia ad esempio, che è fondamentale camminare un po' a piedi nudi per questo. possiamo camminare a piedi nudi appena arriviamo a casa, ci togliamo le scarpe, facciamo a camminare a piedi nudi anche i nostri bambini. Soprattutto. Anche, vero, dottoressa Bertelè? Soprattutto, sì. I bambini a casa devono essere proprio tenuti liberi dalle scarpine, perché già sono costretti tutto il giorno. Bisogna, con un bel paio di antiscivolo, è fondamentale che camminino libero in casa e anche possibilmente il più possibile a piedi nudi fuori, sulla sabbia, che è questa sostanza fantastica perché stimola molto le terminazioni proprio cettive dei piedini, quindi è molto consigliabile camminare sulla sabbia. Per dei piedini adulti. E anche dei piedoni, dei piedi. Esatto, dei piedini e dei piedoni. Senta, dottoressa Bertelè, abbiamo detto che il piede ha un cuore e in realtà il piede è un cuore perché è una vera e propria pompa. Esatto, dal punto di vista vascolare c'è quest'altra funzione fondamentale del piede, che è quella di pompare il sangue verso il centro, cioè dal punto di vista del ritorno venoso. Ad esempio, se una persona soffre, a me è successo quando ero in camera operatoria, di soffrire di ipotimia, cioè di abbassamenti di pressione, diventa fondamentale muovere il piede, alzarsi in punta dei piedi, perché il piede pompi il ritorno venoso. Ah, questa mi piace. Quindi se ci sono dei momenti della giornata in cui ci sentiamo andare un po' giù, ecco. Adesso sicuramente con i primi caldi molte persone avvertiranno degli abbassamenti di pressione. In questo caso ci mettiamo in punta di piedi? Sì, cioè su e giù in punta di piedi, sì. Camminare anche sui bordi del piede, sul calcagno, cioè usare molto la muscolatura, quella che si chiama intrinseca, cioè dentro il piede proprio. E i piedi hanno cuore e sono sensibili. Lei diceva che sono le nostre radici. Attraverso i piedi noi scarichiamo le tensioni, ma i piedi sono dei veri e propri radar. Sì, dal punto di vista della percezione della realtà sono proprio come se fossero delle antenne, sì, delle vere e proprie radici che ci mettono in comunicazione col nostro ambiente. E quindi è sostanziale, ma anche coccolardi, io direi, perché è molto piacevole massaggiarli, farsi massaggiare, ma anche massaggiarli se non c'è nessuno che ci massaggia, perché rilassa tutto il corpo. Nel piede sappiamo, abbiamo già visto con Marco Mazzotta, che ci sono tutte le terminazioni di tutti i corpi, di tutto il corpo, le proiezioni di tutti gli organi, quindi il massaggio del piede rilassa in realtà tutto il corpo. E lo sappiamo che sono molto sensibili, perché basta una scarpa stretta o una vescica a farci, si dice, no, un callo che mi fa vedere le stelle, proprio perché sentiamo questo dolore che dai piedi ci pulsa proprio in testa. Come mai? Perché in realtà il piede ha appunto delle terminazioni proprio cettive nervose, è ricchissimo di terminazioni, e quindi quando viene costretto ci manda degli input di sensibilità anche dolorosa fortissimi, e di cui dobbiamo tener conto, non dobbiamo mai trascurare questi suggerimenti che ci vengono dai piedi. Sensibili come organi di senso, ma sensibili anche perché tendono a lamentarsi, e lo fanno spesso. Eccolo qui, noi oggi non ci limiteremo a osservarli, a visualizzarli, seguendo anche le vostre descrizioni, ma vogliamo anche capire come farli stare bene, quindi fateci sapere se i vostri piedi si lamentano, qual è, lasciatemelo dire, il loro tallone d'Achille, ad esempio lo spazio tra le dita, la pianta, il calcagno, e la dottoressa Bertelè vi darà una mano per i vostri piedi. 800 24 00 24, da Roma ci chiama Fabio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Fabio. Buongiorno e grazie. Volevo dire questo, io ho dei piedi più o meno abbastanza perfetti, molto arcuati giusti, non mi hanno mai dato fastidio, ho sempre camminato con carpe scomode o scomode, ma veramente senza mai avere nessun problema, non ho calli, non ho niente. Invece da qualche mese, specialmente nel tratto che va, come dire, dal collo sul dorso del piede, dal collo all'alluce, specialmente del piede destro, ho delle fitte ogni tanto, ma sia in piedi che seduto, a letto anche, delle fitte terribili, veramente lancinanti, che fermano il cuore. Mi scrive un'ascoltatrice al 349-238-6666 che il mal di piedi ferma il cuore. Dottoressa Bertelè, Fabio ci porta l'attenzione sul collo del piede, no? Ecco, che è una parte molto delicata. È un disturbo che si ha abbastanza frequentemente quando si mettono scarpe un po' strette, con i lacci un po' stretti, perché è facile che si infiammino i tendini. Frequentemente è un segno, un sintomo di una tendinite dell'estensore proprio dell'alluce, il tipo di dolore che ha l'ascoltatore. Sarebbe importante fare un'ecografia del dorso del piede per vedere che non ci sia il tendine intrappolato nella guaina, nella sua propria guaina, e quindi poi si infiamma, fa molto male. Sente, come si fa a capire? Facendo un'ecografia. Bisognerebbe fare un'ecografia del dorso del piede, ma si sente clinicamente, perché il dolore proprio è lungo il tendine dell'estensore, cioè tirando indietro l'alluce si sente un dolore particolare che corre lungo il dorso del piede. In questo caso bisogna, con una radiografia si può in qualche modo comunque innanzitutto bisogna fare molta attenzione a non mettere scarpe chiuse o mucassini, ad esempio troppo stretti col collo stretto, oppure dei lacci troppo stretti. Bisogna mettere per un po' di tempo, lasciare libero il più possibile il dorso del piede. Ecco, un'altra cosa, mi collega a questo, non so, poi magari ne riparliamo, bisogna fare attenzione a non mettere l'infradito quando c'è un disturbo del genere, perché si infiammano ancora di più i tendini. Quindi l'infradito, scarpe che sembrano comodissime, adesso tra poco inizierà la loro stagione, purtroppo, sottolineo purtroppo, anche in città, e quindi ci troveremo a osservare dei piedi anche non curati, scoperti, e non è un bel vedere, come si dice. Ma l'infradito, dottoressa Bertelè, lei dice attenzione, perché può provocare una serie di problemi, ci dà un'apparente comodità ma poi alla fine la si paga. Esatto, cioè soprattutto nell'infradito si è obbligati a usare i flessori delle dita per trattenere la ciabatta se non si perde, e quindi si fa uno sforzo particolare con le dita, per cui si infiammano facilmente i tendini e poi si cammina male e indirettamente, quindi si possono avere dei problemi alla schiena. È molto importante che ci sia un laccetto posteriore, oppure che il piede sia ben dentro una ciabatta, non che io vedo al mare delle persone che camminano proprio malissimo con queste ciabatte, no? Con questo infradito che li perdono da tutte le parti, si inciampano sugli scogli. Dottoressa Bertelè, l'infradito a lei non piacciono a me esteticamente, quando il piede non è bello, a lei che ha un altro occhio, un occhio clinico, non le piacciono proprio per la salute non solo del piede, ma devo dire a salire, no? Della gamba e anche della schiena. Ora dobbiamo procedere alla prova. Ma certo, Anastasia, mia cara. Ecco qua, lo dicevo io che era la mia. È proprio la mia misura. Io l'ho detto subito che era la mia. Appena l'ho vista ho detto... Ecco, forse ho il piede un po' gonfio, sapete com'è, dopo aver ballato tutta la notte. Basterebbe un po' di buona volontà. Mi è sempre entrata così bene. E a volte ci vuole il piede giusto per conquistare un principe. Cenerentola Docet. Intanto saluto il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Insomma, nella storia di il piede di Cenerentola la dice lunga, no? Sì, il piede femminile è sempre stato un fortissimo richiamo erotico. Non so, mi viene in mente pensare all'antica Roma, dove le signore di un certo livello sociale si facevano lavare i piedi solamente dagli schiavi per manifestare il proprio potere anche erotico sulle persone. E poi il piede comunque ha un potere seduttivo enorme. Pensiamo che il piede, se in una scarpa giusta, allunga il corpo, allunga le gambe, dà un senso di slancio, richiama moltissimo, non so, le scarpe col décolleté richiamano moltissimo il décolleté del seno, quindi e poi il piede è per eccellenza il feticcio erotico più seguito da un punto di vista dei feticisti. Pensate quante cose ci sono, quanti feticismi ci sono che riguardano il piede, anche solo per dire quello che apprezza le persone, che apprezzano il piede che si muove dentro la scarpa, cioè mettere, togliere il piede dentro la scarpa, ha un fortissimo richiamo erotico per queste persone. Sì, naturalmente sempre solo il piede femminile, dottor Rossi. Di solito è il piede femminile che ha questo forte richiamo erotico. Il piede maschile suscita meno interesse. Sì, è anche un po' peloso a volte, no? Sì, è anche magari poco estetico rispetto a quello femminile, molto meno estetico. Senta, dottor Rossi, mi descrive il suo piede femminile, qual è un piede femminile bello per lei? E poi lo chiediamo anche alla dottoressa Bertelè e intrecciamo le vostre definizioni. Beh, da un punto di vista femminile il piede più bello secondo me è quello che ha una taglia intorno tra i 36 e i 37, no, di scarpa, molto affusolato, molto piccolino, con delle dita che hanno delle belle unghie in modo da poterle dipingere anche in questo senso. Anche questo è un altro richiamo erotico, perché il dipingere le unghie dei piedi, anche questo suscita, no, comunque un interesse sessuale nel maschio. Dottoressa Bertele, questa è la descrizione di un bel piede femminile del dottore, ma per lei invece un piede bello com'è? Allora, un piede bello è un piede armonico per me, nel senso senza deviazioni né valgismi delle dita, cioè inclinazioni, dita inclinate oppure particolarmente flesse, quelle che dicevamo prima ad artiglio, ben disteso e soprattutto che dia l'idea che la persona si appoggi sul piede, cioè lo senta parte del piede, lo si vede da come sta in piedi. Se un piede è ben appoggiato, tutta la parte della schiena si rilassa e le spalle si rilassano. Quindi questo dà anche modo di camminare bene. Esatto, perché sì, ecco, sì. E anche sulla camminata, prima di salutarla, dottor Rossi, anche sì. La camminata seduce. Beh, la camminata seduce perché comunque deve far muovere adeguatamente i fianchi, no? In un richiamo anche questo che ha un forte potere erotico, perché il piede laddove utilizza, no, il proprio modo di camminare rende sinuosa, ecco, la figura, e questo dà un forte richiamo eccitatorio nel maschio. E ti aggiungo una cosa velocissimamente, bellissimo per l'estate, uno studio che è stato fatto, che il grattarsi le caviglie dà un piacere simile a quello dell'orgasmo. Grattarsi le caviglie, quindi benvenute zanzare. Beh, sì, diciamo di no, però il piacere del grattarsi le caviglie comunque dà questa idea, e questo è un bellissimo studio attuale, quindi forse le zanzare è l'unica cosa positiva che hanno le zanzare. Certo. Grazie al dottor Rossi per essere stato con noi, la dottoressa Bertele rimane in nostra compagnia, mandateci se volete le foto dei vostri piedi, ne analizzeremo alcune, adesso andiamo. Essere e benessere. E siamo tornati insieme oggi, puntata dedicata alle nostre radici, al nostro cuore, alla nostra pompa. Dottoressa Bertele, questi sono tanti modi per descrivere i nostri piedi. Sì, un po' tutto insieme, effettivamente. Ai radar 800 24 00 24. Dottoressa Bertele, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di osservare la forma del loro piede e di osservare anche le dita, perché noi vogliamo, con il suo aiuto, andare oltre l'apparenza. Ogni dito ha una sua simbologia. Sì, ecco, io prendo in prestito un po' l'immagine di una mia cara amica, che è la dottoressa Gabriele Mereu, che mi ha passato la simbologia delle dita dei piedi e delle mani. E quindi ogni dito effettivamente ha una simbologia che riguarda un aspetto emozionale della persona. Sì. Ad esempio, l'alluce in genere rappresenta la relazione con la persona più vicina, più importante. L'alluce destro con la figura maschile e l'alluce sinistro con la figura femminile. Perché adesso che me li sto guardando, anch'io oggi ho messo i sandali, in effetti l'alluce destro e l'alluce sinistro sono un po' diversi tra di loro. Sì, hanno sempre forma diversa, hanno un'inclinazione diversa. Certo. Quindi dipende da com'è, ad esempio, se l'alluce è molto inclinato verso il secondo dito, vuol dire che la persona è un po' condizionata dalla persona che ha vicino, più importante, e che soprattutto il giudizio di questa persona che ha vicino conta molto e la influenza molto. Dal punto di vista meccanico poi c'è tutto il discorso che l'alluce valgo dipende dall'anca, dalla rotazione del ginocchio, ma questo è il campo della simbologia, certo, che è un altro modo di vedere. Ecco, poi il terzo dito invece riguarda più un discorso in relazione al sesso, sì, quindi a alle problematiche sessuali. Il quarto dito, sia della mano sia del piede, riguarda invece i legami dal punto di vista legale, cioè il matrimonio o le società. Sì. Ecco, il quinto dito invece è la parte più infantile di noi, la parte più piccola. Ecco. E non a caso è piccolo, ma è spesso rimane un po' ripiegato, perché? Il quinto dito perché è schiacciato da tutti gli altri, in effetti. Tu la vedi. Nostra parte infantile, che sarebbe invece chissà una parte quanti di noi spazio. Chissà quanti di noi, dottoressa Bertele, nella vita si sentono un po' il Completti, quinto dito. Appunto. Giovanni, buongiorno da Brescia. Niente, io ho un il secondo dito a martello, nel senso che è sopra l'alluce. E poi viene anche, c'è cioè, una specie di cipolla, si chiama, adesso non so come, sì, come definirla sotto l'aspetto tecnico, cioè il medico, e l'ortopedico mi ha detto che devo operarmi, perché se non mi opero fra un po' di anni non camminerò più. E io vorrei evitare a tutti i costi l'operazione. Dottoressa Bertelè, Giovanni, ecco, ci dà uno spunto. Cioè, ecco, esatto. Non per entrare nel, perché la dottoressa Bertelè senza vedere il suo piede non le può fare diagnosi, ma è chiaro che io la domanda che vorrei farle è questa. Ci sono delle... i nostri piedi cambiano, no? Cambiano forma, a volte assumono anche delle posizioni che sono molto dolorose, no? Per se esatto, devono essere sì, poi per chi deve indossare le scarpe, quindi per tutti noi. Allora, in quei casi è possibile evitare il bisturi quando ci sono delle situazioni così compromesse? Si doveva fare prima e ormai si deve cedere, oppure c'è un modo per far restituire, ecco, il benessere ai nostri piedi, quindi anche riportarlo un po' alla posizione giusta? Allora, guarda, chiaramente prima si interviene meglio è. Sì. Però il caso ad esempio descritto dall'ascoltatore, evidentemente c'è un vasismo dell'alluce importante, per cui il secondo dito passa sopra il primo. Sì. Ecco, questo è dovuto senz'altro a una problematica di rotazione molto importante del ginocchio, dell'anca e quindi della schiena. Bisogna agire a monte, piano piano scendere fino al piede, in modo di rimettere in asse le dita. Guardi, io stessa ho avuto un alluce valgo, sì, me lo seguo, compresa mia mamma, perché spesso è familiare, sì, e sono riuscita a far evitare l'intervento a mia mamma, che ormai ha più di 80 anni, anzi 89, e a me stessa. Quindi agendo dove? Agendo sull'insieme della persona, della muscolatura, non è mai un discorso assolutamente localizzato, quindi bisogna fare in modo di derotare la schiena, il bacino, il ginocchio e infine il piede. E questo si fa con delle sedute di fisioterapia, appunto, basate sui principi del metodo Mézières, quindi con un principio di rieducazione molto preciso muscolarmente. Ci vuole tempo? Ci vuole tempo, nel senso che il piede è un po' come la punta dell'iceberg di un problema che è a monte, quindi dipende dalla recettività, dall'età della persona, che non è detto che sia, ad esempio, le persone molto anziane rispondono meglio di quello delle più giovani, dipende cosa fanno come attività, se si riesce a farli smettere per un po' di tempo. Però in genere con una decina di sedute già si vedono dei cambiamenti importanti. Allora, molti di voi ci stanno mandando i messaggi dei loro piedi, se volete potete mandarli anche su Facebook, in modo che la dottoressa Bertelè nel corso di questi giorni, dei prossimi giorni, metterà sicuramente un post su questi, sì, e riconoscendo, ci sono delle forme che si riconoscono, possiamo magari dall'esperienza, dal piede altrui, imparare qualche cosa di buono per il nostro. Piero da Rimini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ma ha mandato la foto, Piero? No, purtroppo mi dispiace, no, perché tanto adesso... Me la manda? Mi manda la foto dei suoi piedi? Se riesco ad accedere a internet, volentieri, adesso purtroppo vabbè, non avendo... Sa perché? Perché, perché alcun... Ad esempio, un ascoltatore mi ha scritto, vorrei mandarle le foto, ma mi vergogno, perché i piedi non tutti li mostrano con piacere. Chiusa la parentesi. Piero, veniamo a lei. Veniamo direttamente al mio problema, cioè stiamo parlando di un rinizio di attività fisica, quindi significa andare a fare running, e dopo 2 mesi che ho ripreso mi trovo in questa condizione, cioè vado a fare mezz'ora, che è diventata 45, sono diventati 45 minuti, però finita l'attività, se tolgo le scarpe passano 10 minuti e sotto il tallone destro viene una fitta lancinante. Ecco perché, dottoressa Bertelè, il piede di chi ricomincia a usare il piede, noi spesso siamo, no, rimaniamo per la maggior parte della nostra vita seduti, ecco, e poi ricominciamo a utilizzarli e il piede ci ripaga lamentandosi. Esatto, nel senso che dobbiamo trattarli con delicatezza e progressione. E la corsa ripetuta sollecita troppo la muscolatura dei polpacci e trazione i polpacci si inseriscono sul calcagno, quindi se la persona corre in maniera ripetuta senza fare un'adeguata progressione, ma a volte anche quando è stata fatta la progressione ma si corre effettivamente troppo per la situazione muscolare tendinea, si crea questa trazione sul calcagno che porta poi alla tendinite achillea, si chiama poi sperone calcaneare a seconda di dove si calcifica poi il tendine. Perché quindi, troppo sollecitati i piedi, esatto, ecco, le loro strutture si infiammano e poi si lamentano e a volte urlano, ma noi vogliamo evitare, allora per chi i piedi li usa per camminare, per correre, insomma per chi attraverso i piedi fa proprio una sana attività fisica, abbiamo in linea con noi Tite Togni, insegnante di yoga certificata Iyengar, che è in linea con noi. Tite, benvenuta. Ciao Tite. Ciao. Tu, tra l'altro, Tite ha mandato le foto dei suoi piedi e sono dei piedi molto con le dita molto aperte, perché lo yoga, come insegna Tite, apre, no? Ma Tite, diamo un consiglio prima di parlare di come lo yoga può aiutarci ad avere una buona relazione con i nostri piedi, che si riflette a catena sul nostro benessere generale. Certo. Diamo un po' qualche indicazione per chi riprende con la bella stagione a camminare o a correre, si confronta un po' con i problemi di cui ci parlava il nostro ascoltatore. Sì, allora il piede è la base di tutta la nostra capacità più o meno grande di ricevere l'energia da terra, allora è sì, proprio la base. Quindi come diceva la dottoressa Bertelè, sono le radici. E allora quindi va tanto di moda il barefoot running, la corsa senza più nemmeno le scarpe, che è un attimo esagerata, però c'è del vero sotto. Perché no, non iniziare la mattina, appena sveglia, a camminare assolutamente a piedi nudi, preferibilmente sull'erba, ma anche se non c'è l'erba. E comunque 5 minuti di camminata a piede completamente nudo è un grandissimo start-up, un grandissimo risveglio di tutta la muscolatura. Per chi vive in un monolocale? Anche. Sì, scusa, sì, sì. Fai due giri, fai due, tre, quattro giri. Certo, sì, che camminare sull'erba in un prato leggermente bagnato dalla rugiada è molto più romantico, ma anche nei monolocali metropolitani utilizziamo il piede. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi yoga per il piede. Essere e benessere. Siamo ritornati insieme, due esperte, la dottoressa Bertelè e Tite Togni, per darci una mano per la salute e il benessere dei nostri piedi. Tite, piedi e yoga, sì, una relazione molto stretta, e tu che ci hai mandato le foto, apro una piccola parentesi, vi abbiamo invitato a mandarci le foto dei vostri piedi, lo state facendo, potete farlo mandandoci una mail a esserebenessere@radio24.it specificando se poi queste foto possiamo metterle anche su Facebook o potete farlo direttamente su Facebook. Non mandatemi foto al 349-238-6666 perché non possiamo aprirle. Detto questo, Tite, tu ci hai mandato delle foto, una foto dei tuoi piedi con i piedi con le dita molto aperte, dita che tu apri proprio con le dita delle mani, giusto? Sì, allora c'è un principio generale, no? Più le parti del corpo, poi qui i medici mi potranno dare ragione, sono sicura che me la danno, ma perché lo danno lo yoga, e più i comandi vengono dati lontani dalla testa verso le estremità del corpo, e più è probabile che non arrivino diretti e giusti. Quindi bisogna, come dice il mio maestro, prendere per mano, come se fossero bambini, le estremità. Ecco qui l'idea, che tra l'altro in Oriente è molto praticata anche nel Do-in, questa pratica giapponese di risveglio dell'energia del corpo, prima ancora di usarlo quindi il corpo, di manipolazione delle estremità. E invito veramente tutti a iniziarlo, perché è un modo completamente diverso di iniziare la giornata, come dire mettere il piede giusto o no. Ecco, quindi noi utilizziamo le dita delle mani per massaggiare, le inseriamo tra le dita dei piedi, allarghiamo le dita dei piedi. Addirittura sì, cioè proprio prendersi in mano il piede da seduti oppure anche da in piedi, sollevare le dita dei piedi, prenderlo ad uno, manipolarlo, cioè stirarlo, quasi svitarlo fuori dal piede, per fare spazio, per allungarlo, per mandarci energia, per mandarci ossigeno, chiamatelo come volete. Dottoressa Bertelè, le piace? Tite ha già detto, i medici mi daranno ragione, perché i medici danno ragione allo yoga, è vero? Allora, questo tipo di posizione di manovra fa parte anche dell'antiginnastica, quindi sì, che è derivata dal metodo Mézières, quindi sicuramente andiamo nella stessa direzione. Certo. Poi tutto quello che è apertura, che è spazio, è assolutamente positivo per la persona. Siamo sempre troppo compressi, troppo chiusi in tutti i sensi. Ecco, quindi più si manipola il piede, e ancora meglio se ce lo fanno gli altri, come io ho la fortuna che mio marito me lo massaggia la sera. Vede. Ancora meglio questo. Tite, quindi un esercizio molto semplice, al mattino appena svegli, oppure alla sera tornando a casa, o ancora sì, meglio mattina e sera. Esatto. Mm. Prima, durante e dopo i pasti, come diciamo. Prima, durante e dopo i pasti, piedi nudi. Quindi, se sono seduto e non ho niente da fare, chiedo scusa a chi ho vicino, prendo in mano il mio piede, inserisco le dita delle mani fino in fondo tra le dita dei piedi e continuo a manipolare il piede avanti e indietro, le estremità, le falangi. E quindi, questo è già un primo esercizio, perché capirete, sentirete che tipo di risveglio c'è, con anche un pochino di dolorino, che è il dolorino di quando c'è il risveglio delle parti del corpo. Se lo volete provare e volete raccontarci le vostre sensazioni, lo sapete che la nostra pagina, il nostro profilo Facebook, è proprio sta sempre più diventando un'occasione di scambio, di consigli, suggerimenti. Scriveteci. Grazie a Tite Togni. Grazie. Grazie anche della foto. E io vado a Lodi, dove ci aspetta Jasmine. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Grazie a lei. Ci racconti. Allora, io ho due figli, in casa non hanno mai usato le scarpe. Riesco a malapena durante l'inverno a fargli portare i calzini. Sì. Mio figlio ha 20 anni e giusto le scarpe se le infila per uscire, perché lo obbligo. Tante volte capita che esca per strada ad aiutarmi a trasportare la spesa senza scarpe. Vede, che figlio gentile che aiuta la mamma a portare la spesa. Jasmine, qual è la tua domanda? La domanda è: mio figlio corre sul tapirulan senza scarpe. Ecco. Va bene. Fa bene o fa male? Dottoressa Bertelè. Ma sul tapirulan è abbastanza morbido, quindi non dovrebbe creargli grossi problemi, se non a livello proprio cutaneo, come attrito con la tapirulan. Sarebbe meglio che mettesse, visto che è così appassionato nello stare a piedi nudi, magari le scarpe quelle tipo five fingers, cioè quelle dove ci sono proprio le dita separate, che è come camminare a piedi nudi, e sono state infatti inventate per correre in montagna da una persona che prima correva a piedi nudi, e proteggono nello stesso tempo la cute. Sono delle specie di guantini per piedi. Esatto, esatto, sì. E ci piacciono queste scarpe qua? Diciamo, esteticamente sono bellissime. Ecco, non sono bellissime, funzionalmente sono notevoli, insomma. Consigliabili, quindi, senz'altro. Consigliabili, dottoressa Bertelè, a chi cammina molto, a chi... Esatto, sì. A chi cammina molto, proprio per fare in modo che il piede aderisca bene al terreno, come se si fosse piedi nudi. E tutte le dita possono spingere nel modo corretto, nella spinta in cui si solleva il piede, quando c'è lo stacco del piede. E quindi a far funzionare quella magnifica pompa, da esatto, cui poi parte veramente l'energia e il benessere che arriva alla punta dei capelli. Silvia da Roma, rapidissima. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, ma io sono quasi in chiusura, mi racconti? Allora, il mio dolore è al piede destro, in corrispondenza del quarto dito, si allunga lungo la pianta, quando metto scarpe con il tacco alto, è stata una volta proprio lancinante. Dottor Silvia, lei parla di scarpe con il tacco alla dottoressa Bertelè, che tutte le volte che la sento mi dice: ma lei va ancora sempre con quei tacconi? Dottoressa Bertelè, colpa del tacco, dica la verità. Il tacco sì, ma proprio perché a volte il tacco sollecita eccessivamente il quinto metatarso, cioè la testa proprio di appoggio, a volte si forma o una lesione della testa e metatarso, cioè quella che si chiama una necrosi della testa, oppure un neuroma di Morton. Quindi consiglio alla signora intanto di togliere i tacchi, sì, e di eventualmente mettersi una solettina di silicone sotto l'appoggio dei metatarsi, che è apposta per le scarpe col tacco, in modo da sollievo. E poi semmai alterniamo, esatto, un po' tacco, un po' senza tacco. Dottoressa, esatto, Bertelè, grazie. Noi l'aspettiamo a vedere i piedi dei nostri ascoltatori di Essere Benessere sul nostro profilo Facebook. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. C'è sempre il questionario di Mangia con me. Nuove iniziative sono in pentola, compilate e scaricate. A domani. Essere e benessere.